Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto Gianluca Codognato che è con noi al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco. Allora Gianluca, oggi parliamo di un problema che se andiamo a prendere una bolletta della corrente elettrica capiamo. È una cosa particolare che secondo me dovrebbe essere cambiata, ed è il fatto che sulla bolletta elettrica, ma anche su quella del gas, viene calcolata l'IVA anche sulle accise. Quindi noi paghiamo una tassa sopra la tassa. E qui ci sono un po' di cose da dire. Sì, Francesco, in effetti poi devo dire che è una casistica, è una situazione che non è così sconosciuta agli utenti. Spesso da noi sono venute delle persone a chiederci, con la bolletta alla mano, se era giusto insomma che l'IVA fosse pagata anche sulle imposte. E noi abbiamo detto che ovviamente non è giusto, però attendavamo che arrivasse un pronunciamento, e Francesco, questo pronunciamento è arrivato lo scorso 9 maggio, quindi recentissimo. È il pronunciamento del giudice di pace di Venezia, che finalmente mette nero su bianco quello che stavano dicendo in tanti, anche leggendo su Facebook, vari forum, eccetera, e che è un po' anche quello che è successo con l'IVA sulla TIA. Sì. Quindi diciamo che dal 9 maggio scorso finalmente un giudice di pace ha stabilito che no, non è giusto che insomma le compagnie ti facciano pagare, in questo caso poi i soldi vanno allo Stato, comunque che venga pagata una tassa su una tassa, come insomma è anche ovvio. Per cui ovviamente dopo questa sentenza ci si attende una pioggia di ricorsi, anche se ovviamente bisogna fare un po' alcune premesse. Voglio ricordare, Francesco, che la prima sentenza per quanto riguarda l'IVA sulla TIA risale al 2009, però solo esattamente 2 mesi fa è stata messa definitivamente la parola fine a questa annosa questione, e insomma adesso lo Stato tirerà fuori i soldi. Chissà cosa succederà adesso con l'IVA sulle bollette. Io ho proprio in mano una bolletta, l'ultima che mi è arrivata della corrente elettrica, e ho constatato che effettivamente ci sono 30 centesimi di accise, e su quei 30 centesimi c'è anche su quelli applicato il 10% di IVA, è una tassa su anche sulle accise. In questo caso alla fine se fai i conti sono 3 centesimi. Però 3 centesimi ogni bolletta per tot anni, insomma, può essere anche una cifra molto più grossa, a seconda anche di quanta corrente uno consuma. Esatto, Francesco. Allora diciamo, è chiaro, non ci illudiamo di andare a recuperare migliaia di euro, stiamo parlando di cifre non elevatissime, per esempio per quanto riguarda la sentenza del giudice di pace del 9 maggio scorso. Il tenace signore che ha fatto ricorso, insomma, alla fine si è visto restituire 100 euro. Chiaramente stiamo parlando di calcoli che vanno indietro di 10 anni, come sempre, quindi la prescrizione è decennale in questo caso. Quindi noi, andando indietro di 10 anni, chiaramente sui 3 centesimi, insomma, si può arrivare a avere quei 100-150 euro. Però diciamo che a questo punto diventa anche un po' una questione di principio, perché ovviamente non si capisce, insomma, perché noi poveri cittadini, insomma, non per fare della facile demagogia, ma dobbiamo regalare insomma i soldi così allo Stato, quando in realtà sappiamo che quando lo Stato avanza soldi da noi, insomma, no, sicuramente non si fa problemi a chiederceli. Sicuramente non stiamo parlando di cifre enormi, però insomma stiamo parlando di somme che devono essere restituite, quindi è legittimo che vengano restituite agli utenti. Certo, immagino per esempio magari qualche azienda che consuma molti più kilowatt di un privato, insomma le cifre possono anche essere decisamente più interessanti. Non capisco perché, se ci sono questi errori, non vengono corretti. Questa è una cosa incredibile, no? A dirlo, ed è quello che è successo anche con l'IVA sulla TIA. Ti dico, Francesca, è dal 2009 che sappiamo che ci sono stati i primi pronunciamenti, poi però c'era chi diceva no, ma in realtà è legittima. Addirittura abbiamo visto che è stata cambiata in più occasioni il nome dell'imposta per cercare insomma di aggirare l'ostacolo. Anche noi ci chiediamo, ma come mai? Cioè, una cosa così chiara non trova subito una soluzione. Questa sentenza, che ripeto è una sentenza per un singolo caso, non farà sì che nella prossima bolletta noi non pagheremo l'IVA su una tassa. E quindi succederà probabilmente che dovremo aspettare ancora 5, 6, 7 anni fino a che finalmente verrà veramente cancellato, fino a che non troveremo più l'IVA pagata sulle imposte. Ricordiamo una cosa, Francesco, perché è giusto essere precisi: non è che l'IVA, che non è che io nella bolletta non debba trovare l'IVA, perché l'IVA sui consumi è legittima. Il problema è che, come hai visto te sulla tua bolletta, l'IVA viene calcolata su tutto il consumo, comprese le accise, e questo è l'errore, ovviamente. È da là che vengono fuori magari cifre non elevatissime, però ripeto, io credo che saranno tantissimi i ricorsi degli utenti, noi li promuoveremo sicuramente, credo che anzi entro la prossima settimana predisporremo anche un modulo ad hoc e forniremo l'assistenza per fare ricorso, perché proprio non riteniamo giusto che questa situazione, l'abbiamo fatto anche con l'IVA sulla TIA, e abbiamo appunto predisposto i moduli, abbiamo fatto predisporre i moduli e lo faremo anche in questo caso. E quindi chiedete lumi e consigli all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, c'è il sito associazionedifesaconsumatori.it con i contatti, i numeri di telefono. Con te Gianluca, ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.